Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Ho appena finito di sentire una lettera selezionata tra quelle che vi scrivono gli ascoltatori. Vi si sostiene l'utilità di innalzare l'età pensionabile per destinare più risorse future ai giovani. Assolutamente d'accordo, chi non lo sarebbe? Già mio marito ed io, che siamo sulla sessantina, ci siamo accorti della differenza tra i trattamenti dei nostri genitori, che hanno fatto lavori umili ma sono andati in pensione a 50 anni e tutto sommato hanno potuto permettersi ad esempio una badante, e le nostre prospettive future di ultra ottantenni. Tutto giusto. Ma immagino siate a conoscenza che in questo paese non esistono solo lavoratori dipendenti da grandi aziende che possono contrattare mobilità lunghe e prepensionamenti. Mio marito ha 57 anni, lavora da quando ne aveva 20 e ha maturato un'anzianità di 27 anni come dipendente e di 10 come Co.co.co e Co.co.pro. Lasciamo perdere considerazioni su quanto ha perso in 10 anni come TFR e come calcolo per la pensione. Come dipendente, per ora, la pensione gli viene calcolata col metodo di calcolo retributivo e come Co.co.pro avrà un trattamento calcolato col contributivo che sarà meno della metà rispetto all'altro calcolo. Ma il problema vero è che il prossimo gennaio il contratto non gli verrà rinnovato. Non avrà nessun welfare, è prevista una piccola indennità di disoccupazione solo per chi l'anno precedente aveva un CUD inferiore a 15.000 euro. Ogni soluzione possibile di pensionamento a 60 anni anziché 65 è impraticabile e sicuramente non sarebbe più in grado di trovare un altro lavoro, in quanto essendo analista su grossi sistemi non conosce gli attuali linguaggi di programmazione. Parlare di un servizio pubblico che gli dia una mano in termini di riqualificazione di welfare è parlare di chimere. Credetemi, non esiste nulla. In conclusione, 57 anni, 37 di lavoro e almeno 8 di vita sui risparmi, dopodiché una pensione forse calcolata tutta col sistema contributivo. Stiamo parlando di una generazione che vivrà la propria vecchiaia in povertà. E chi non vorrebbe lavorare anche fino a 70 anni, se il lavoro semplicemente ci fosse? Egregio direttore, ho sentito la sua risposta alla lettera di un ascoltatore sul tema dell'innalzamento dell'età pensionabile. Sono un manager libero professionista dal 1986. Negli anni precedenti, da dipendente, ho accumulato 17 anni di contribuzione, compresi 5 anni di marina militare. Ero sottufficiale. Per un errore, a dir poco grossolano, del mio commercialista di allora, ho iniziato a versare i contributi da lavoratore autonomo solo dal 1995. Adesso dovrò attendere i 65 anni di età per andare in pensione, pur avendo 40 anni di lavoro alle spalle. Come lei ben sa, la riforma Maroni obbliga chi ha contributi sia da dipendente che da lavoratore autonomo a un minimo di 40 anni di contributi, mentre per chi ha contributi solo da dipendente ne bastano 35. A me sembra una sbandata che non poggia su nulla. Infatti un lavoratore autonomo finisce per versare, in termini assoluti, cifre molto superiori a quelle di un dipendente. Inoltre credo che una buona amministrazione debba anche passare per una certa giustizia sociale. Non crede che quei privilegiati che si godono la pensione dopo appena 2 anni e mezzo di legislatura debbano rivedere le proprie posizioni e mettersi in linea con noi, poveri mortali cittadini? Giuseppe. Lavoro per un'agenzia di lavoro temporaneo, oggetto di critiche e soggetto critico. Io non credo che la cultura del lavoro somministrato o della flessibilità sia un criterio sbagliato. Lavorando per una multinazionale che offre gli stessi servizi in tutto il mondo, so che oltre confine la cosiddetta flessibilità lavorativa è considerata un pregio, che permette alle aziende di rincorrere i candidati per aggiudicarsi la loro collaborazione. Il concetto di lavoro a tempo indeterminato è una convinzione tutta italiana, poiché in Italia, senza garanzie ipotecanti il futuro, non puoi pensare di sopravvivere. Ovviamente questo pensiero può essere stravolto vivendo in un'economia sana, dove per realizzare le proprie ambizioni non si è costretti a ricorrere a prestiti e finanziamenti e dove non si è costretti a vivere legando la propria esistenza lavorativa ad una sola azienda. Io, da italiana, che al momento non ha un lavoro a tempo indeterminato, sono la prima a rincorrere la chimera illusione di un contratto definitivo che mi consenta di vivere relativamente serena in questo paese. Io, dipendente di una multinazionale, però, So anche che la scala di valutazione fuori dal mio paese è diversa, così come so che le cose da cambiare nel mio paese sono molte. Prima di poter condividere l'ipotesi di valutare il frequente cambio di impiego, un pregio. Probabilmente tutto avrebbe dovuto essere valutato meglio, una volta che si era deciso di entrare a far parte dell'Unione Europea. Non possiamo pensare in grande, senza considerare di dover cambiare quello che siamo. Miriam, Modena. Martedì sera ho ascoltato Franco Grillini, il presidente onorario di Arcigay, e mi è venuta una rabbia di quelle. E sapete perché? Perché non sono un uomo e non sono gay. E perché ormai i diritti alla propria tutela li hanno solo loro. E noi donne? Cosa dovremmo fare o dire del fatto che sui media vediamo ormai solo tette e culi? Che dire delle vecchiette che per pochi euro vengono ammazzate? Che dire dei bambini sfruttati o violentati? Io alla sera, quando rientro a casa, devo affrontare manipoli di spacciatori arroganti che cagano, pisciano e vomitano davanti ai portoni delle nostre case. E devo pure sbrigarmi, perché sono sola e loro sono tanti. Perché noi siamo meno difendibili dei gay? E per noi intendo tutta quella gente che vive in quartieri che si sono degradati a causa della demagogica cultura dell'integrazione sociale, fatta soprattutto da amministratori senza scrupoli che non hanno la capacità di comprendere quanto sia complessa e difficile l'integrazione. Graziella. Caro direttore, in questi mesi ho ascoltato e a volte condiviso soluzioni e proposte per sostenere il tessuto produttivo e le piccole imprese. Tra questi la creazione di un fondo di garanzia per i prestiti erogati dalle banche, che si affianchi a quelli garantiti da associazioni imprenditoriali e di categoria, o dalle camere di commercio, data l'urgenza di liquidità per molte aziende. Ma dove trovare le risorse? Obbligare le banche a concedere prestiti, o peggio nazionalizzarle, non credo sia la strada più appropriata. Credo fattibile e possibile un patto tra Stato e tutti quei cittadini che, per fortuna, o perché dipendenti statali, la crisi non sanno neanche cosa sia. Tali cittadini si impegnerebbero, su base volontaria, a cedere i propri risparmi o parte del proprio stipendio per costituire tale fondo di garanzia, lasciando alle banche la funzione di selezione e decisione su chi finanziare e chi no, in modo da evitare gestioni politico-pubbliche. In cambio lo Stato, o meglio il Governo, dovrebbero ovviamente fornire la garanzia che, onorati i prestiti, tale denaro ritorni ai possessori e, per esempio, avviare tutte quelle politiche che dimostrino una volontà di risolvere determinati problemi. Un'intensificazione della lotta all'evasione mirata agli evasori totali e non a quelli che eludono qualche centinaio di euro l'anno. Una legge che fissi una data certa per l'abolizione delle province, un'altra per la riduzione dei parlamentari e del loro stipendio. Questa proposta rappresenta la volontà di aiutare tutti quegli artigiani, imprenditori e lavoratori che ogni giorno lottano e lavorano per stare a galla e che spesso hanno già messo tutti i propri beni personali nella propria attività. E non so se sarebbero molti gli italiani disponibili ad impegnarsi, ma mi auguro che questo paese non sia solo terra di corruzione, nepotismo, raccomandati, criminalità organizzata, evasione fiscale, inutili contrapposizioni politiche, ma anche di persone che insieme vorrebbero costruire un presente e un futuro un po' diversi. Con i miei pochi risparmi di giovane precario sarei pronto da domani. Andreas. Caro Andreas, la sua proposta ha certamente molti lati positivi, soprattutto quando parla di un patto tra i cittadini e lo Stato, con un impegno di solidarietà da una parte ed efficienza dall'altra. Ma c'è un aspetto da non dimenticare. Già ora il sistema finanziario prevede che i cittadini possano affidare i propri risparmi alle banche e che questi concedano prestiti a chi ne ha bisogno. E già ora esiste una garanzia sui depositi bancari e lo Stato ha il dovere di tutelare il risparmio. Va benissimo la filosofia della sua proposta. È la stessa in fondo che è stata alla base della fondazione delle banche cooperative, delle casse di risparmio, delle casse rurali. Secondo il principio della mutualità. Va meno bene, secondo me, pensare a una struttura pubblica che si trasformerebbe facilmente in un nuovo carrozzone di cui non si sente sicuramente la mancanza. Per oggi è indetto uno sciopero dei tranvieri milanesi con la consueta modalità dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. A parte il fatto che è sempre molto difficile scoprire le motivazioni di questi scioperi, ho letto il Corriere della Sera che si limitava a dare la notizia in prima pagina senza aggiungere altro, probabilmente perché anche i giornalisti non sono a conoscenza dei veri motivi che spingono questi signori dell'ATM a creare difficoltà alla cittadinanza. Vorrei far presente che da ormai diversi anni i COBAS, la sigla che ha indetto lo sciopero, non solo non riescono con questi scioperi a fermare la metropolitana, ma hanno grossi problemi a fermare anche la metà dei mezzi di superficie. Io sono un taxista milanese e in qualità di operatore del traffico sono sicuro delle mie osservazioni. Risultato? Oggi i milanesi saranno spaventati dalla notizia dello sciopero e saranno tutti in auto ad accorciare la vita di noi taxisti che ormai non consideriamo più convenienti neanche sul piano economico questi eventi di cui faremmo volentieri a meno. Ma è possibile che nessuno si prenda la briga di avvertire i milanesi che solo i confederali riescono a fermare la metropolitana? Gennaro. Vorrei che qualcuno mi spiegasse che cosa vuol dire per un giudice ricusare dei testimoni e per un altro giudice non fare in tempo. Ragion per cui un pluriomicida come Giovanni Principe, presunto killer della mafia garganica, pur essendo condannato a 42 anni, esce dal carcere per decorrenza dei termini. Non sarebbe in questi casi opportuno l'intervento del CSM? Altro che tutela dei magistrati. Vorrei anche che qualcuno riuscisse a spiegarmi quello stupido servizio sul giudice Mesiano, peraltro trasmesso in una fascia oraria che non avrebbe avuto grandi ascolti se non fosse stato per le polemiche. Al di là dei calzini, che ora era quando il giudice è stato ripreso mentre era dal barbiere? Che giorno era? Forse il signore a quell'ora avrebbe dovuto essere al lavoro? Quanto lavorano questi miei dipendenti così ben pagati? E ancora, chi tutela la giornalista che da precaria è diventata disoccupata? Non esiste forse un sindacato giornalisti? È possibile che siano tutti bistrattati solo perché hanno idee diverse? Stendiamo un velo pietoso su quel parlamentare che, a proposito del servizio, parlava di palta lanciata che ritorna col vento. Se la lanciano loro, invece, il vento non esiste più? Laura. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.